ad un sogno dolce che mi fa sognare ancora di più. Ma dove e quando è nato il nostro amore? Perché io ti stringo sul mio cuore così e ti bacio con l'anguore così. Tu che sei tutta la mia vita.